I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Delle parole pronunciate ieri dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi di fronte a una platea di centinaia di imprese quotate nei vari segmenti della borsa italiana, due hanno colpito in maniera particolare. La prima, di carattere più operativo, è la promessa che a breve il governo arriverà con un provvedimento per migliorare la situazione delle sofferenze bancarie, ossia i crediti che le banche italiane vantano nei confronti delle imprese e che ormai non sono più esigibili. La misura, se veramente verrà realizzata, dovrebbe servire a liberare le banche di ulteriori zavorre e a questo punto avranno ancora meno scuse per non prestare soldi al sistema produttivo di questo paese. L'altro aspetto toccato riguarda il capitalismo di relazione. Quel capitalismo che portava sostanzialmente nel rapporto tra capitale bancario e capitalista imprenditore a privilegiare i rapporti, i salotti buoni, le relazioni rispetto al merito di credito, con la conseguenza che in questi anni abbiamo raccontato di imprenditori che hanno fatto buchi miliardari perché le banche gliel'hanno concesso e continuiamo a raccontare di migliaia di piccoli imprenditori che non riescono a ottenere crediti dalle banche nonostante la validità dei loro progetti. Bene ha fatto quindi il Presidente del Consiglio a ricordare che il capitalismo di relazione appartiene al passato e molte volte è stato di carattere non trasparente. Avrebbe solo dovuto aggiungere un'altra cosa: i soggetti coinvolti in questo capitalismo relazionale non erano solo due, ma tre. C'era anche la politica, che nel mediare tra questo capitalismo di relazione o nell'esserne parte attiva ha tratto più di un vantaggio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Che significa se la Guardia di Finanza fa una lunga perquisizione negli uffici di A-Towers, la società Mediaset è proprietaria delle torri che distribuiscono il segnale delle TV del gruppo? Significa che le fiamme gialle sentono puzza di insider trading e di aggiotaggio nell'operazione che nelle settimane scorse ha visto proprio A-Towers protagonista di un tentativo di scalata alla società omologa della Rai, Rai Way. Tutto è cominciato a metà febbraio, quando a sorpresa la società delle Torri del Biscione ha annunciato il lancio di un OPAS, un'offerta pubblica di acquisto e di scambio, per aggiudicarsi il 66% dell'azienda concorrente e creare così un unico soggetto gestore, come avviene già in Spagna, in Gran Bretagna, in Francia. Il governo aveva da poco quotato Rai Way, indicando nel decreto di approdo al listino che non avrebbe mai rinunciato al 51% della società, quindi a detenerne il controllo. A-Towers tuttavia sembrava incurante di questo vincolo, che peraltro Renzi ha subito ribadito. Poi è arrivata la bocciatura della Consob e quella dell'antitrust. A-Towers allora ha modificato le condizioni dell'OPAS e ha annunciato che non intendeva più acquisire il 66%, ma solo il 40%. Ma anche in questo caso è arrivata un'altra bocciatura della Consob. Quindi il 17 aprile la rinuncia ufficiale alla scalata. Tra l'annuncio e la rinuncia, però, i titoli di A-Towers e di Mediaset hanno avuto impennate anche del 10% e hanno chiuso il periodo intorno a un più 8%. Da un mese prima dell'annuncio, poi, si riscontravano mani forti sul titolo Rai Way. Chi aveva investito nella società in occasione del lancio sul listino di Milano, il giorno dopo l'annuncio dell'OPAS aveva guadagnato dal debutto oltre il 37%. Ora tutti i componenti del consiglio di amministrazione di A-Towers sono indagati per aggiotaggio nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e coordinata dall'ufficio del procuratore Gerardo Greco, che si occupa per l'appunto dei reati finanziari. Per ora è solo un'indagine, vedremo gli sviluppi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.